Radio 24 Reportage. La rinascita di Bagnoli con la città dell'assenza. Di Carmelo Presti Simone. Hello, io no go. Stamattina mi ha svegliato il sole. L'odore del caffè, posteri e canzoni. Bagnoli, periferia ovest di Napoli. Quattro anni dopo, città della scienza rinasce, risorge dopo il rogo di origine dolosa che distrusse scienza e idee. Oggi invece c'è Corporea, il primo museo interattivo in Europa dedicato al corpo umano. 5.000 metri quadrati, tre piani, 14 isole tematiche, 100 installazioni dove bambini e ragazzi si divertono, interagiscono e scoprono il proprio corpo e quindi la propria energia, la stessa che ha rianimato una struttura grazie a uno dei più grandi crowdfunding, la raccolta delle risorse mai messi in piedi. Giochi, apparecchi e laboratori consentiranno di sperimentare i meccanismi che regolano la vita. 1.500 i biglietti staccati al primo giorno, segnale chiaro della curiosità che il pubblico ancora serba per le scienze. Vincenzo Lipardi, consigliere delegato di Città della Scienza. Voglio ricordare che Corporea è il più grande investimento pubblico in cultura realizzato in Europa negli ultimi anni. Un progetto di realizzazione realizzato appunto come scrittura da un gruppo importante di professionisti della medicina della nostra regione e però poi realizzato da un raggruppamento internazionale guidato dal Protom, che è un'azienda napoletana ma insomma con grandi ramificazioni internazionali. Tutto il movimento professionale che ruota intorno a Città della Scienza, all'occupazione che ci sarà in queste strutture e poi il 4 marzo del 2020 un'altra ricostruzione, quella dello Science Center. Noi dobbiamo cambiare il volto di Napoli, costruire la speranza, e la speranza si costruisce in un unico modo, facendo di scienza, tecnologia e innovazione il motore per una trasformazione sociale che riporti lavoro, quello vero, che riporti ingegneri, tecnici, che riporti tanta professionalità in questa città, che la faccia aperta, connessa, che si attenta ai più deboli, e che in qualche modo riporti questa nostra bellissima e antichissima città al centro del mondo. Siamo un po' orgogliosi come napoletani, però proviamo appunto a farlo, come dire, con i piedi a terra e con la capacità di pensare. Perché per rianimare e ricostruire perfettamente nel mattone, nello spirito, bisogna anche riconoscere il merito e il valore. Due spunti su cui il rettore dell'Università Federico II Manfredi si è soffermato. Queste sono due regole che noi consideriamo fondanti, che mettiamo al centro dell'azione delle nostre università e che consentono alle nostre università di essere ai vertici nazionali anche come qualità, competitività, capacità di formazione e qualità dei nostri studenti. Ma Bagnoli, che ricordiamo è periferia occidentale della città, adiacente al comune di Pozzuoli, un luogo magico, mitico per le leggende che Virgilio racconta di quei luoghi, facendoli diventare location immaginarie, accoglienti e ben disposte ad ospitare eroi e malfattori. Oggi però Bagnoli ha una sua dimensione migliore, soprattutto proiettata a un futuro fatto di idee. Il sindaco di Napoli, De Magistris. Bagnoli ha anche le immagini della perizia della magistratura che ci dice che c'è stato un inquinamento criminale su questi territori. Allora noi dobbiamo sapere che oggi invece si sta scrivendo una pagina, negli ultimi mesi in particolare, di una cooperazione istituzionale che può portare nel giro di poco tempo a un risultato storico non solo per la città di Napoli, per la Campania, per il Mezzogiorno, per il Mediterraneo, ma direi per l'Europa, per la bellezza che rappresenta Bagnoli. Significa bonifica integrale, e su questo c'è l'impegno di tutte le istituzioni: rimozione della colmata, recupero della balneazione, linea di costa, spiaggia fruibile da tutti, parco pubblico, archeologia industriale, edilizia sostenibile, sviluppo, migliaia di posti di lavoro. Il ministro per la coesione territoriale per il Mezzogiorno De Vincenti assicura l'impegno del governo. Come sapete, mi occupo da qualche tempo di bonifica e rilancio dell'area di Bagnoli Colonio. L'impegno che abbiamo profuso nell'ultimo anno e mezzo e le risorse che abbiamo messo a disposizione, come era giusto e necessario, è un impegno che noi viviamo con grande convinzione. E oggi, che dopo 23 anni, finalmente, grazie a questo impegno di questo anno e mezzo che abbiamo alle nostre spalle, a quello che ci attende. Oggi che sono cominciati i lavori nell'area di Bagnoli, l'area di Le Nord, che viene ora restituito reso fruibile e restituito ai cittadini, la rimozione dell'amianto e dell'Eternit. È pronto il progetto di messa in sicurezza della colmata in vista della sua rimozione. Partiranno nei prossimi giorni le caratterizzazioni, che sono il primo passo per arrivare alla bonifica integrale di tutta l'area. Mi piace dire proprio qui, a Città della Scienza, che il progetto di Città della Scienza si inserisce perfettamente all'interno del progetto di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti, come testimonia anche l'accordo molto innovativo, lo ricordava prima di Pari, che è stato raggiunto tra Città della Scienza e Invitalia e che consente di è perfettamente coerente con la ricostituzione della linea di costa. Pasquale Esposito, del Mattino, qui a Corporea, inaugurazione di questo primo museo interattivo. Emozioni dopo quel rogo di 4 anni fa per una rinascita che fa tornare il sorriso a tutti? È vero, giustamente si può parlare di rinascita di Città della Scienza, che è una delle poche sfide vinte a Napoli in campo anche sociale, non solo culturale. Questa è una fabbrica del sapere e vedo che hanno fatto questo museo corporea, che è un'altra un altro fiore all'occhiello, perché mi pare che sia fatto molto molto bene su basi scientifiche e anche divulgative, perché è importante coniugare la facilità di approccio, certo, con il sapere scientifico. Che cosa significa questo museo, questo avamposto della cultura per Bagnoli, periferia ovest di Napoli, negli anni 80 ambita, ti ricorderai, dagli Agnelli, certo, che volevano investire qui, poi non se ne fece più niente, insomma, illegalità, camorra, delinquenza fecero il resto, purtroppo. Oggi invece qual è la situazione? Oggi la situazione è quella di una prospettiva di rilancio, ma non solo gli Agnelli avevano messo gli occhi, anche i costruttori di livello nazionale, e invece questo è un luogo mitico dal punto di vista ambientale e paesaggistico, e con questa grossa opportunità di questa fabbrica del sapere scientifico. E poi l'entusiasmo per la riapertura del complesso, che è visibile anche tra le famiglie. Sono contento di questa riapertura, in quanto la nostra città si prende una bella rivincita e poi non la dà per vinta a queste persone che hanno provocato questo incendio. Poi può essere anche una possibilità lavorativa per molti giovani, in quanto tanta disoccupazione che c'è nel meridione. È buono per portare anche i nostri figli, fargli conoscere il corpo umano, dargli qualche possibilità in più anche a loro di conoscere cose nuove, belle cose della nostra città. Speriamo che si riaprano sempre più queste nuove realtà. Riapre Città della Scienza, lei che lavora a Città della Scienza, motivo di orgoglio istruire anche tanti ragazzi su come è fatto il corpo umano? Sì, è stato una settimana, un fine settimana molto importante per Città della Scienza, perché c'è stata un po' la riconquista di un'area dedicata anche all'istruzione, allo sviluppo e alla diffusione della scienza anche per le comitive. Io infatti sono proprio un dipendente e mi occupo proprio dell'istruzione dei ragazzi, e sicuramente la ripresa ha portato un incremento anche delle presenze. Tutto ciò, delle presenze, di tutto ciò che è diffusione della scienza. È un piacere, oltre che un onore, svolgere questo ruolo di diffusore del sapere e di tutto ciò che contribuisce a incrementare la conoscenza dei ragazzi. Stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, postere e canzoni. Insomma, Corporea è un posto della cultura in zona, Bagnoli appunto, dove speculazione, anarchia e criminalità in passato hanno fatto il resto. Quindi da posto è diventato avamposto, soprattutto dopo il rogo di 4 anni fa. C'è voluto del tempo, certo, ma una ricostruzione, quindi un recupero, ha bisogno di nuove energie, di nuova linfa e soprattutto di un'idea. C'è stata ed è stata sviluppata.